da chissà che mano, per essere buttati in mezzo alla nebbia, con chi alla nebbia si è già rassegnato, ed a spalle curve e vestiti umidi. Corse finite al mattino, col cuore che batte in un mucchio di sabbia, su fette d'asfalto dal fondo ceduto, due lepri ogni tanto si fermano lì. Si fermano a urlare, siamo qui, angelo che l'allibratore si diverta un po', senti proprio tutto bene. E al prossimo campo si fermano un po'.